giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il progetto di Porto Vivo presentato alla stampa in comune. Ci saranno almeno 200 appartamenti, uno studentato da 300 posti, ma la polemica si infuoca. Tre consiglieri dell'opposizione denunciano di non aver potuto partecipare alla presentazione per la stampa. Piogge molto intense a Trieste, in particolare nell'est della provincia, in località Noghera, nel comune di Muggi, esondato un torrente e allagato alcune case. Il polo universitario di Pordenone sarà la sede del nuovo corso di laurea in ingegneria industriale per l'energia dell'Università di Udine. Marina Cobal, docente di fisica sperimentale dell'Università di Udine, ha ricevuto il premio Laura Bassi per le donne nella fisica dalla Società Italiana di Fisica. L'ufficio del giudice di pace di Trieste è al collasso, la carenza del personale ormai al 50%. La denuncia arriva dall'Ordine degli Avvocati, che da gennaio ha ricevuto quasi 2.200 richieste di patrocini per le istanze per la protezione internazionale. A Udine l'avanzo della raccolta di fondi per l'iniziativa Un Frigo per ogni cella molto probabilmente sarà destinato all'acquisto di attrezzi per la palestra, come richiesto dai detenuti. Intanto potrebbero farsi avanti nuovi donatori per migliorare le condizioni di vita dei detenuti. Buongiorno da Andrea Saule e Nada Cioc. In apertura sentiamo le novità sulla presentazione alla stampa del progetto di rivitalizzazione del Porto Vecchio, presentazione avvenuta nel comune di Trieste. Il servizio non è pronto, parliamo del maltempo, ci sono state forti piogge e allagamenti come avete sentito nei titoli. Sì, forti piogge come annunciato, permane l'allerta gialla fino a domani mattina, per ora colpita principalmente la zona di Trieste, il Carso e le valli del Natisone, ma le criticità maggiori sono a Muggia, le precipitazioni record, il Val Rosandra in poche ore è caduta la media di pioggia di un mese, hanno provocato le esondazioni del rio Menarolo a Muggia, nella zona delle Noghere in località Vignano. Alcune persone sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni invase dall'acqua che è arrivata anche all'interno di alcuni capannoni industriali. Sul posto sono intervenuti la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco. Allagamenti sono stati segnalati anche in altre zone del comune, mentre via Trieste è stata chiusa in entrata in direzione Muggia. Il sindaco Paolo Polidori ha invitato i cittadini a evitare, dove possibile, gli spostamenti verso Trieste. Sempre in zona Noghere è chiusa la strada in località Farnei tra il sottopasso e la trattoria al ponte per allagamento. Oltre confine, problemi sia sull'autostrada che la Scofie va verso Capodistria. Dalla serata di mercoledì nel corso della notte, rovesci temporali hanno interessato tutta la regione, in particolare un sistema temporalesco piuttosto forte ha interessato le zone costiere con raffiche di vento forte da sud-ovest con 91 km orari segnalati a grado. Vediamo le temperature registrate poco fa. Trieste 18 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, Udine Pordenone 19 gradi, Gorizia 17 gradi, Tolmezzo 15, Forni di Sopra e Piancavallo 12 gradi, Tarvisio e Sappada 10, sullo Zoncolan 6 gradi e sull'Ussari 5 gradi, a Lignano abbiamo 20 gradi e a Grado 19. La temperatura del mare in laguna è di 24 gradi. Queste invece le previsioni dell'ARPA, cielo in genere coperto con piogge intense e temporali sparsi, localmente le piogge potranno essere molto intense e temporali molto forti, sulla costa soffierà vento da sud sostenuto, dal pomeriggio sarà probabile un'attuazione delle piogge con vento sostenuto e freddo da nord e bora in serata sulla costa con raffiche intorno ai 90 km orari a Trieste, dal pomeriggio sui monti possibili nevicate oltre in 1500-1800 metri, in serata localmente forse anche a quote inferiori nel Tarvisiano. Per domani al mattino cielo coperto con deboli precipitazioni residue e temperature basse specie per la stagione. Sulla costa soffierà bora sostenuta specie a Trieste, in giornata ulteriore leggero miglioramento con cielo nuvoloso, vento in calo e temperature che saliranno un po' ma rimarranno basse per il periodo. Abbiamo ora il servizio sulla presentazione alla stampa del progetto di rivitalizzazione del Porto Vecchio di Trieste. Sentiamo i dettagli. Almeno 200 appartamenti, uno studentato da 300 posti letto e poi due hotel, uffici, un'area wellness, appartamenti per anziani e una foresteria per gli ospiti della città, ma anche negozi, parcheggi privati, un marina con 500 posti barca, una spiaggia da 5.000 metri quadrati e una centrale di teleriscaldamento con tanto verde. È il progetto di rigenerazione urbana di Porto Vecchio, presentato a Trieste nelle sale del comune. Il piano, che parte da una proposta avanzata un anno fa da Costim, gruppo di real estate di Bergamo, si aggiunge alle altre opere messe in campo da comune e regione sull'area e costerà in tutto 620 milioni di euro. La modalità scelta è quella del partenariato pubblico-privato, ad esempio il centro sportivo, gli impianti tecnologici saranno dati in concessione per 50 anni, mentre altri edifici, dove sorgeranno residenze, studentati, centri di ricerca, saranno venduti al privato. Per il comune il ruolo sarà quello della regia, con cui vigilerà sul rispetto dei tempi e dei costi. Everest Bertoli, assessore comunale alle politiche finanziarie. È quello che il pubblico deve fare. Noi non solo abbiamo studiato e abbiamo voluto la regia all'inizio, ma grazie al partenariato pubblico-privato manterremo la regia fino alla fine di questi lavori. Il ruolo del privato invece è investire e portare le sue idee innovative, soprattutto poi nelle aziende all'avanguardia che verranno inserite in quest'area. Il piano sarà sottoposto al voto del Consiglio Comunale, poi toccherà la conferenza dei servizi. Secondo le previsioni sarà messo a bando entro la primavera del 2025. L'avvio dei cantieri potrebbe essere già l'anno prossimo, la conclusione è prevista per il 2035. Il risultato sarà un nuovo quartiere che darà un nuovo volto alla città, destinato a tutti i cittadini. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. E quando è arrivata l'ambasciatrice di Monte Carlo mi ha detto, eravamo proprio qua davanti a queste foto, ha detto stai facendo Monte Carlo 2, e naturalmente le opposizioni si sono scatenate dicendo che faccio una cosa per ricchi. Non è vero, perché mettiamo dentro di tutto e di più e sarà qualcosa di straordinario per la nostra città, basta vedere la foto. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Condivisione, progetto per la città, se il buongiorno si vede dal mattino, cominciamo male. Siamo andati alla conferenza stampa sul Porto Vecchio indetta da sindaco assessore Bertoli, o meglio avremmo voluto andare perché l'assessore non ci ha consentito di farlo. Lo scrivono in una nota i consiglieri Altin, lista Russo Punto Franco, Barbo del Partito Democratico e la terza di Adesso Trieste. Tutto questo aggiungono dopo che ieri pomeriggio è stata convocata per domani la commissione in cui verrà illustrata la delibera e solo oggi ci verranno resi disponibili i documenti. Cosa c'era da nascondere? Questo è il modo di collaborare con le forze politiche e la cittadinanza su una partita fondamentale per la nostra città, dicono. L'ufficio del giudice di pace di Trieste rischia la paralisi con una scopertura del personale amministrativo che ha ormai superato il 50%. Lo afferma il presidente degli avvocati di Trieste, vicepresidente dell'Unione Triveneta, Alessandro Cuccagna, in vista dell'assemblea dei legali di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino, Alto Adige, in programma sabato 14 settembre a Trieste. Sul carcere il presidente degli avvocati evidenzia la preoccupazione per il sovraffollamento della struttura di via Coroneo. Il 40% della popolazione carceraria del Coroneo è rappresentata, dice, da detenuti in attesa di giudizio ed è elevato il numero di soggetti che scontano pene detentive relativamente brevi, al di sotto dei 4 anni. Bisognerebbe quindi pensare per loro a misure diverse dalla carcerazione. E infine Cuccagna parla anche delle boom di richieste per la protezione internazionale. Dal 1 gennaio oltre 2.186 le istanze pervenute al Consiglio degli Avvocati per i patrocini a spese dello Stato presentate da stranieri che ricorrono contro il provvedimento di diniego dello status di rifugiato. Pur avendo destinato la metà dei componenti del Consiglio, 5 su 11, a questa attività, sovente, aggiunge Cuccagna, non si riesce ad evadere immediatamente le richieste. La raccolta di fondi, un frigo per ogni cella, promosso in agosto da alcune associazioni assieme al garante delle persone private della libertà, Andrea Sandra, ha avuto una risposta oltre alle aspettative, raccogliendo più fondi di quanti sono stati spesi per dotare il carcere di via Sparato dei frigoriferi. Nel Salone del Popolo a Udine è in corso un incontro con l'associazione del terzo settore per individuare idee e soluzioni sull'utilizzo dei fondi raccolti a disposizione nell'ambito della progettazione e della ristrutturazione del carcere di Udine. Sentiamo il garante. Avete raccolto oltre 10.000 euro, ne avanzano 5.000 consegnati ai frigoriferi e vi state consultando con l'amministrazione carceraria, ma soprattutto con coloro che usufruiscono poi dei benefici di questa raccolta, quindi i detenuti stessi, per capire come impiegare i soldi che sono avanzati. Discuteremo insieme su come investire queste somme. I detenuti si sono già espressi Noi avremo la presenza, sia pure da remoto, della comandante della Polizia Penitenziaria all'interno del carcere, che ci aggiornerà sulle ultime comunicazioni ricevute dai detenuti, ma possiamo già anticipare che le spese che serviranno sono relative alla palestra, che è un po' come dire in stato di obsolescenza rispetto alle attrezzature che vengono investite, ma poi la richiesta sono anche cose di tipo diverso, i tavoli da ping pong per esempio, oppure i calciobalilla, quindi tutti strumenti che servono per rendere più tollerabile la vita all'interno del carcere. Naturalmente, come è noto, c'è anche il problema della ristrutturazione in corso, che prevederà la realizzazione di nuovi spazi per i laboratori, per la biblioteca, per le aule studio, e anche lì bisognerà pensare poi al loro arredo, alla formazione di tutto ciò che serve per renderli utilizzabili. Aggiungo che in questo periodo, in questo ultimo mese, abbiamo avuto anche contatti importanti con realtà storiche di questa città, penso soltanto all'Udinese Calcio, e tutti ci hanno dimostrato una grande sensibilità al tema e soprattutto la disponibilità a operare insieme a noi e a darci una mano dove quando gliela chiederemo e nei termini in cui glielo chiederemo. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. I consiglieri regionali Enrico Buglian e Diego Moretti, rispettivamente del Patto per l'Autonomia Civica FVG e del Partito Democratico, annunciano una mozione a favore dello Ius Scuole, che sarà depositata a breve in Consiglio regionale, con primo firmatario Moretti. Seguiamo con attenzione lo sviluppo del dibattito nazionale e locale sul tema della cittadinanza, scrivono i due consiglieri, e crediamo che la nuova fase di Forza Italia, che si smarca dalle posizioni più reazionarie e populiste della destra di Lega e Fratelli d'Italia, vada attenzionata dal punto di vista politico, anche perché la proposta sullo Ius Scholae potrebbe essere quella che realisticamente sarà approvata nel medio periodo. L'auspicio, proseguono i due esponenti di centro-sinistra, è che Forza Italia a livello nazionale e locale non si faccia condizionare da logiche di maggioranza e mantenga a quanto detto in queste settimane. Il polo universitario di Pordenone sarà la sede del nuovo corso di laurea in ingegneria industriale per l'energia dell'Università di Udine. Dal percorso formativo usciranno ingegneri in grado di declinare i temi energetici della termica, meccanica ed elettrica. Numerosi gli sbocchi professionali per gli energy manager che sono richiesti dalle aziende, dalle società di ingegneria civile e industriale e nel settore di efficientamento energetico, anche nell'ambito della pianificazione e negli enti territoriali. Il corso di laurea è stato presentato poco fa. La figura professionale, che competenze avrà e quali sono i possibili sbocchi? Allora, essenzialmente sarà una figura professionale trasversale, tiene conto del fatto che l'energetica ormai è un problema altrettanto trasversale. Quindi noi formiamo un ingegnere che non si occuperà esclusivamente della produzione su larga scala come tradizionale ingegnere energetico, ma sarà l'ingegnere dell'energia, che è necessario e indispensabile ad ogni forma di attività industriale per ottimizzare la metodologia e il processo produttivo, ottenendone un processo efficiente e sostenibile. È un'esigenza che emerge da questo territorio, cioè su questo territorio ci sono aziende che hanno questo tipo di necessità? Assolutamente sì, perché appunto ormai è un problema che coinvolge tutti i livelli di aziende e di qualunque livello, di qualunque dimensione. Ogni processo industriale ne ha bisogno. Abbiamo anche realtà industriali qua in regione, nel territorio, che si occupano proprio di attività direttamente centrate sull'energetica, se penso solo alle idee di scambiatore di calore, di mille altre aziende, ma in generale la figura professionale che formiamo è una figura che sta diventando necessaria per qualunque tipo di processo industriale. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'intervistato che avete appena sentito è Giulio Croce, coordinatore del corso di laurea appena presentato. E parliamo ancora di università, perché Marina Cobaldo, docente di fisica sperimentale dell'Università di Udine, ha ricevuto il premio Laura Bassi per le donne nella fisica della Società Italiana di Fisica. Il riconoscimento è destinato a ricercatrici che si siano particolarmente distinte per la loro attività scientifica. Cobaldo è stata premiata per i suoi originali contributi alle fondamentali scoperte del quark top presso il laboratorio Fermilab di Chicago e del bosone di Higgs con l'acceleratore cuore di particelle del CERN di Ginevra, nell'ambito rispettivamente degli esperimenti CDF e Atlas, nei quali ha ricoperto ruoli scientifici di rilievo. La premiazione si è svolta durante la cerimonia del 110° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica a Bologna. È un grandissimo onore ricevere questo premio, spiega Marina Cobal, dedicato alla prima donna al mondo in età moderna ad aver ottenuto una cattedra universitaria e proprio in fisica. Per questo ringrazio sentitamente la Società Italiana di Fisica, ma anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Udine, che mi hanno permesso di svolgere la mia attività di ricerca in prestigiosi laboratori. A Udine tutti a scrutare il cielo, perché è tutto pronto per l'apertura degli stand di Friuli Doc alle 17.30. La manifestazione enogastronomica ha in programma 4 giorni di concerti ed esibizioni con 65 appuntamenti, palchi allestiti in Castello, Piazza Venerio, Largo Ospedale Vecchio, Piazza 20 Settembre e Piazza Marcone. Alle 21, tempo permettendo, suona Johnson Righeira. Un evento che richiede anche un forte impegno della logistica ambientale. Comune e NET hanno predisposto 400 contenitori aggiuntivi per la differenziata e l'istituzione dei responsabili ambientali dei singoli stand. Nelle giornate clou gireranno fino a 25 mezzi in più per lo smaltimento rapido dei rifiuti e ci saranno oltre 40 addetti per la pulizia delle strade. Tra gli appuntamenti, alle 18.30 verrà presentato il progetto solidale del riciclo dei tappi di sughero usati quando stappi, tieni il tappo. Alle 19.30 la prima degustazione, ovviamente dedicata al friulano. Da lunedì 16 settembre partirà dalla stazione di Gorizia Frecciarossa diretto a Napoli. In questi momenti la presentazione del nuovo collegamento di RFI con Caterina Belletti, membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiano, Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità Trenitalia, e il sindaco Rodolfo Ziberna. La Regione ha prorogato al 30 settembre la possibilità di chiedere i contributi per il conseguimento della patente per gli autisti sia del trasporto merci che del pubblico locale. Per la principale associazione di categoria FAI, che rappresenta le imprese di autotrasporto merci, la conferma della sempre più grave difficoltà a trovare autisti. Sul sito della Regione è apparso l'annuncio della proroga dal 31 luglio al 30 settembre del termine ultimo per far domanda di contributi per la patente CQC per diventare autista sia di camion che di autobus. 320.000 euro la dotazione per il trasporto merci, 100.000 per quello pubblico locale, l'incentivo è del 50% per chi ha già un lavoro, dell'80% per un disoccupato fino al 100% nel caso venga assunto da una ditta di trasporto, un prolungamento dovuto al basso numero di candidati in linea con l'andamento dell'anno scorso, quando a giugno le domande si sono attestate al 60% e prorogando l'incentivo fino a settembre si è riusciti a impegnare tutti i fondi, spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante. Per il segretario regionale della Federazione Autotrasportatori Italiani Giulio Zilio, a scoraggiare le domande potrebbe essere anche il fatto che i contributi vengono riconosciuti a rimborso al conseguimento della patente, che può costare anche fino a 4.000 euro, un esborso difficilmente anticipabile per un disoccupato, osserva Zilio, secondo cui anche il requisito della residenza quinquennale in regione starebbe limitando i potenziali candidati. Complicato per Zilio anche fare domanda attraverso il portale della regione dietro pagamento di un'imposta di bollo. A confronto, seppur con altre criticità, osservano dalla FAI, appare più agile il sistema nazionale per la richiesta dell'analogo bonus patenti, che va sempre subito esaurito. Si fa domanda in una pagina dedicata e viene riconosciuto un voucher spendibile nelle autoscuole convenzionate. C'è poi il punto interrogativo sugli effetti per il comparto delle patenti conseguite con l'incentivo, afferma Zilio, ricordando che il titolo può ottenerlo anche chi l'autotrasportatore non lo fa di mestiere. Per l'associazione di categoria un meccanismo che andrebbe migliorato con misure strutturali. Tutto è perfettibile, replica l'assessore Mirante, che apre a possibili modifiche a patto che la ricaduta avvenga per le aziende del territorio, e si dichiara disponibile al confronto al tavolo della neocostituita cabina di regia del trasporto e della logistica. Sullo sfondo resta il grave problema della carenza di autisti. In regione ne mancano tra i 300 e 400, stima la FAI. Una situazione in peggioramento coi pensionamenti e un turnover insufficiente a dare risposte alle aziende sempre più in difficoltà. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Per gli interventi di difesa e sistemazione delle sponde lungo il fiume Corno in prossimità del centro canoa San Giorgio di Nogara, il consorzio di bonifica Pianura Friulana ha avviato la procedura di gara. Lo ha reso noto il direttore del consorzio Armando Di Nardo, incontrando il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin. Durante l'incontro sono stati illustrati i lavori che verranno svolti sul fiume Corno e metteranno in sicurezza l'area con un investimento di 900.000 euro. Inoltre Di Nardo ha illustrato gli interventi del secondo lotto del progetto di manutenzione straordinaria dei fiumi della Bassa Friulana, che può contare su un importo di circa 1 milione di euro. I comuni interessati dai lavori sono 20, tra cui anche Varmo, Bertiolo, Rivignano Teor, Pocenia, Precenico e Palazzolo dello Stella. Le Poste replicano le proteste sindacali dei cittadini contro due chiusure di sportelli a Trieste. Ce ne sono 32 nella provincia, continueremo a garantire una presenza costante assicurando la qualità dei servizi ai cittadini, dice una nota dell'azienda, parlando anche del progetto Polis con l'ammodernamento di 7.000 uffici postali nei comuni più piccoli. Ne sono stati completati 66 in regione, la presenza sul territorio è un asset strategico per l'azienda, dice la nota. Poste Italiane conferma di aver predisposto un piano di riorganizzazione di alcuni uffici postali conforme ai provvedimenti adottati dall'autorità di regolamentazione AGCOM, che ha previsto in provincia di Trieste la citata chiusura degli uffici postali di via Carmelitani e di via Combi. Per l'ufficio postale di via Caboto 14 è stata disposta una sospensione temporanea dell'attività per motivi di sicurezza dell'immobile a tutela dei cittadini e lavoratori. L'ufficio non rientra pertanto nel piano. Presentato Letz, il Museo della Letteratura Trieste, dove troveranno spazio le opere legate ai nomi dei letterati di caratura europea che sono nati o cresciuti nella città o da essa si sono fatti ispirare. Da oggi Trieste ha la sua casa della grande letteratura, una letteratura che dall'inizio del Novecento si è imposta nella storia della letteratura nazionale con un suo tratto peculiare, per il suo impegno morale, per la sua dedizione di battersi per un'altra Trieste, per un'altra triestinità, ha spiegato Claudia Omagris intervenendo all'inaugurazione al Museo Revoltella citando gli autori di inizio Novecento come Slata, Persevo e Saba. Il Comune di Trieste ha dunque inaugurato il suo Museo della Letteratura Letz, con sede nello storico Palazzo Biserini nel cuore di Trieste, in Piazza Ortis. Al suo interno trovano posto non solo musei Svevo e Joyce, soggetto di un totale riallestimento, ma anche il nuovo Museo Saba. Letz ospita anche documenti e libri di tanti autori che dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri hanno fatto e fanno di questa città una capitale della letteratura europea modernista. Entrando negli spazi del Palazzo Biserini si trova l'edicola della storia, che sintetizza appunto la storia della città, poi la libreria degli scrittori, la sala principale che racconta attraverso autori e autrici che a Trieste sono nati e hanno vissuto, compresi i contemporanei ai quali sono dedicati due grandi tavoli centrali. La libreria degli scrittori ospita anche due ambienti dedicati all'ascolto, voci sulle onde, le postazioni dove il visitatore può leggere uno dei circa 2000 volumi messi a disposizione oppure ascoltare degli audiolibri, e poi c'è il cinematografo delle storie nel quale si raccontano la città letteraria, la sua storia, gli straordinari personaggi femminili che caratterizzano la sua letteratura. Letz sarà aperto al pubblico da domani. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia. L'invecchiamento con i suoi disturbi e patologie al centro della scuola estiva del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine. Come e perché cambia il sistema immunitario con l'invecchiamento? È questa una delle domande a cui tenta di dare una risposta la scuola estiva dell'Università di Udine organizzata dal Dipartimento di Medicina. Il professore dell'Università di Modena, Andrea Cossarizza. Parlare della risposta immunitaria significa capire i meccanismi con cui l'individuo, la persona anziana o diversamente giovane, meglio ancora, si difende da tutti i patogeni, da tutte le malattie degenerative, infettive o quant'altro. 3 giorni dedicati a studenti, specializzandi e dottorandi per presentare le ultime evidenze scientifiche sul tema. Barbara Frossi, professoressa dell'Università di Udine. Andiamo incontro anche a dei cambiamenti nell'ambito della medicina nel dover curare pazienti molto anziani, estremamente fragili, in cui il sistema immunitario è diverso da quello di un giovane. Si sa poco del sistema immunitario degli anziani, la ricerca è relativamente recente perché le persone estremamente longeve sono una caratteristica dei tempi moderni e quindi c'è tantissimo nella ricerca che è stato fatto e ancora da fare. Quella che abbiamo è una società con molti anziani e in futuro lo sarà ancora di più. Con l'avanzare dell'età è più probabile soffrire di più malattie insieme, magari croniche, ma non per questo meno problematiche. Vivere a lungo, ma soprattutto vivere a lungo meglio, è una delle sfide, anche perché, secondo il professor Cossarizza, ormai l'umanità è prossima al limite biologico di età raggiungibile. Come tutti i mammiferi abbiamo una vita limitata dall'evoluzione, che è quella che ci permette di avere dei cuccioli, di aspettare che i cuccioli abbiano i loro cuccioli e quant'altro, quindi ci sono dei tempi, no? L'elisir di lunga vita non esiste. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E questo è tutto per questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Andrea Saule e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Samuel Montalto. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.